UFO triste! Graziano! Ehi, cosa sei? Allora, già sei in piedi, sì! Ehi, c'ho da stamani in piedi! Esagerato! Sarai da ripresi in piedi! Tu oggi mi vengo con bizzarro! Non per un cane in tutta l'azienda! Qualcuno che vuole entrare può essere abortante. Nah. Adesso sta per se vuoi entrare. Vuoi entrare, portante? Ha detto che non ha gara. A chi non si ha lavato la recce non intendi bene. Ve l'ha voluto, vuoi tutti i caletti, ma falliti in vita. Bravo, grazie, bravo. Tu sei che sei balabazzi. Allora, vuoi come ti risponde, ah? Eh? Io non so ancora mai, non conosci come te la bimba, hai capito, Tore? Hai visto, confermi? Buonasera, signor Giomaria, prego. Buonasera, signor Tore. No, ero io, infatti. Sa cos'è? Molto strano. Cazzo, a fondo scala e non sento niente. Vai giù, è vero, il volume è tutto abbassato. Cazzo, è strano, ho detto. A me pure capita così. Se sarò un volume non mi metto da sallo. Non vedi voci. Mi capita già a me pure così. Ah, grazie, non succede questo qua. Solo a noi succede tutto. Lui è il principe. No, sbaglia mai. Chietta. Che andava e anda. Vero, grazie. Di la verità, non sbaglia mai tu. E allora, chietta. Se mi manco io gli occhi, pigliti di sentimenti. Non so cosa potreste combinare. Diglielo tu, Tore. Dai, Cata, tu sei permaloso, sì, sei troppo permaloso. Anda, vero, Gio Marì? Oh, basta comprendere, ecco. Cata, bene come dici tu, mi, bello bene. Ah! Aspetta, riprendete voi, ci comincia, mi aspetta, mi devo mettere a posto, soltanto qua, posto, sta voi, aspetta, vada a mangiarsi di... lo dirà mi summe. Bocchidozzi è un bembe. È un bel bocchidozzi. Ehi, ecco già, cazzo. Dai, piace poco, cazzo. Ti piace il bolgurrone, però non li può mangiare. Cazzo, andiamo, andiamo. Vero, grazie. Cazzo, dolore però lo puoi mangiare. Beh. Sai com'è? Noi lo mangiamo invece. Di là tutti, infatti oggi sono tutti rinnovati, tutti lombati, tutti torroncino. Aggiudici. Hai mangiato troppo dolore oggi. Il lombardo è to. Ma lo dolore non fa già male al rognone. Ti sa che eri troppo busato. Oggi mi sono abbassato la braga abbezzuta. Tu ma chi sei graziano? Grazie se abbia sentito tutto, beh. Mi pare invece, raga. Cacchi babbuino ne va stessato. Sopra lo darrazzo, grazie. Ciao Marì. Oioi. Che colore ne combina? Ma la stufa li deve entrare in giro di roba, mi sono scura, mi se ne è andato l'usori. Atta, ancora se non è accesa la stufa, boh. Aspetta Gian Maria, è entrata gente che ti stava salutando. Avanti, boh, non si fa avanti, che non giugunisci tu gaira. Avanti che voleva salutare Gian Maria. Buonasera a tutti, Natalino da questa parte. avanti, chi vuole salutare la signora Gio Maria, avanti, avanti, la porta è aperta. E allora, questo graziano è tutti i colori, ne combina, ragazzi. Gio Maria, non ascolti a Natalino? No, non lo sentono. Natalino, hai detto che non ti ascolta. Sono col gommino, capito, e non arrivo lì. Gai, essere giunto. No, tu arrivi bene, io è che non arrivo a te. Sicuramente. Ma che c'è anche Graziano, c'è. Già l'ho sentito, già. Anche Graziano arriva, solo che se sono col gommino non mi sentono a me. Ah, boh. Graziano, lo ascolti tu. Poi, ma... No, non ti sente Gio Maria, ha detto che non ti sente. Ma è perché sono un gommino a parte dietro, capito? Sì, no, lui ti sente a te, sei tu che non senti a lui. Ah, così è. Io non sento a lui, ma lui mi sente a me, strano è. E cioè, è solo un gommino a parte dietro. Sì, io lo sento bene. Non sono là, si arriva benissimo qua lui. Infatti è strano che non mi senta. Gio Maria, perché tu arrivi benissimo a lui, però è strano che non lo senti. Non lo sento tu. Magari se mi dovessi spostare davanti, senz'altro lo sentirei, ma qua è solo a parte dietro. Sono da reggio un Natalino, per cui non posso andare avanti adesso. Capito, Natalino? Già ho capito io, digli che già ho capito che dalla parte dietro lui non può venire sul davanti dove mi sente, capito? Infatti, Gio Maria ha detto che ti ha già capito che sia a parte di dietro. Infatti, ma fa freddo tutto là, una mina ai sabbassi, capito? Come si sente la giorno, cazzo, vuoi un freddo? Allora, questa parte dietro invece ci sta bene, ecco. Perché c'è la ciupa sull'andito e entra un po' di calore, per cui sto bene, ecco. Però davanti no, purtroppo non mi posso spostare, c'è troppo freddo adesso. Sì, in cucina, no? No, è la parte di cucina dietro, però, capito? Ho capito, ha già compreso, e quindi da lui arrivi, però non senti a lui. Come Bacchiglio, meglio è proprio cosa strana Bacchiglio, è una cosa incredibile, non riusciamo a sentirci con Bacchiglio, gatto. Ma cosa bisogna fare a Bacchiglio, gatto? Lì bisogna guardare, sollevare l'antenna più su, bisogna mettere in un punto più su. Ma non si decide, cazzo, non si decide questo Bacchiglio, Oggi era la giornata da piazzare le antenne, cosicché non ha fatto nemmeno oggi, dice che la metteva più su, anzi no, non c'aveva il cavo, così ha detto no. No, non c'aveva il cavo, così è. Non c'aveva il cavo per metterla più su, non gli basta il cavo, cioè vuole un altro po' di cavo, ci vuole. Certo, se non c'è a capo allora finito lo scopo. Va bene, allora digli a Natalino se li sente bene a me. Natalino, hai sentito? Benissimo, lo sento io. Non lo senti più? Ho detto che lo sento benissimo. Gio Maria, che ti sente benissimo, ti sente. Vedi un po' com'è la situazione. Questa frequenza balorda, ragazzi. Cata, io arrivo lì ma lui è qua, non arriva. Poi c'è anche la parte mia, perché sono da questa parte anche, capito? Però se io arrivo dovrebbe arrivare anche lui. È quello che è la meraviglia di questa frequenza, capito? Lo so che è così. Secondo come dove ti metti, no, non lo ascolti. Magari se si sposta forse lo ascolti. Allora, per carità, ragazzi, perché non siamo la 27, ragazzi, che migliore, ragazzi, almeno ci sentiamo tutti, ragazzi. Non lo so se ce l'ha lui la 27. Sì che ce l'ha, mi sembra che ce l'ha ieri che stava parlando di 27, vero, Natalino? Digli l'attore. Già ce l'ho la 27. No, passiamo nella 27. Bisogna vedere se... Sì, ci sentiamo tutti qua, ma ci sentiamo. O sentiamo una parte e l'altra non ci sente. E siamo sempre lì. Fratelli, se passi sulla 27, passa anche lui sulla 27. Ehi, va bene, va. Graziano, grazia! Ehi, dimmi! Grazia, passa sulla 27, che siamo lì. No, oramai non è stato, è già stato. Io poi non ho giocato, sono capito. E allora riposati. Andate là, lo lascio acceso qui. Non ne ho voglia adesso di prenderla, attaccare. Io... Andate, vi da. Grazie a lui. Sì. Ma che notizia di ghizzo la sera, si che drummi. Facciamo a nessuno mi. Tutti i sogni sono col PMR. Cosa? Non ti ho capito, stai facendo a tratti. A chi lo ti va che lavaggio delle orecchie stamattina, per quello è. Adesso già ti ho sentito. No, non ha più danno, vado a attaccare. Là. Sono con mal di schiena, non ha più gana, mi dori un'anca a buco, sui ginocchi, sarà il balletto che mi ho fatto ieri. Cosa hai fatto ieri, il balletto? Non ti l'hai mandato un video. No, a me non mi hai mandato niente. Ieri non mi hai mandato niente. Ah, va, ti domando, sei zicata a buio. Beh, c'è la cos'è che hai combinato? Boh, non lo so. Non è che hai trattato 5 contro 1, no? Il balletto, aspetta, ti mando il video su WhatsApp. Tetto. Ballando stava ieri. Sì. Mi balli. La moglie di Racuto a Edo, è paese tutta d'orori. Mi balla a me pure, ce l'ha posto sotto. Era tutto mastracato. E va tutta a d'orori. Cos'è? Così è, grazia. Ah, se mi te l'ho mandato adesso, Giommari, il filmino. Avanti, mando pure la fotografia, va. Avanti, vedi un po' cos'è che mi sta mandando, cazzo. Ma domanda, cazzo, faccio un telefono, ma non c'è che non ti vedi sopra, otto. Ehi, Giomari, dimmi. A me da chi sono travestito, da coniglio, non sono travestito, te ne ho mandato un altro. Anche. Cazzo, bacio tutti che si deve mandare, chi su pure l'hai mandata, va. Mi sembra che l'ho visto quel coniglio, Visola, e guardati il filmino, e abbaida di Ghisciu, anche questa foto fa, aspetta, no, questa non fa, quest'altro ti mando, va, ecco, abbaida il tiraggio mandato. E a qua non è arrivato niente qua. Così un bevi buono. Me, mi hanno mandato una foto con le frittelle di ricotta. Ma sempre roba da mangiare ti mandano, grazia. Eia, buoni proprio buoni, arrosolati me. Sono su friggeni la cazzarura, una bombetta. Ha scritto per Ciccino. Che te intende Giomari? Aspetta un attimo. Ah, detto che se beh, tu non ce l'ho il coso, se no te lo mandavo a te, hai fatto un paio di risate. Sì, grazie. Ce n'è bisogno. Non ce l'hai perché WhatsApp? Sì che ce l'ho, ma non mi mandare... numero tramite frequenza e già me lo faccio dare, non ti preoccupare. Se no già te lo do io un altro momento. E così, però tu mi devi dare il tuo, così ti mando magari col video, fotografie, che ti vedo rezzati. Sì, già ci arrangiamo con Gio Maria. A chi è rimanere a Buru compleanno mio, ha festeggiato Buru io. E beh, Gio Maria è arrivato, Catta, e a dove bussi il capo, bella torta, babba. Catta, ma non hai sudato i candelini? Due sono, numero 6 e numero 2, 62. E allora, anche da me la giudizia ciuffata, vita danno pacchetto. E te, bacia reso, catta. Ah babà, Adesso è andato via col vento, ti mando il bacio di via col vento. Ehi, c'è la piscina, carè. E la piscina. Ah, vanno al bisnastro. E allora te ne ha mandato uno. Ah, tua figlia è quello che ti ha avvicinato la torta, sì, tua figlia è. Mia figlia è questa. Aspetta, questa qua no, non so se ti ha arrivato. No, qua non c'è, dove? Allora, e beh, come ti so, Gio Maria? Grazie, si lo vedi, si ha posto il cappuccio longo in capo, da poi le rose se le ha ciuppendi. Ah, aspetta chi dà il bacio di via col vento, $1, mezz'ora vero? Addirittura mezz'ora. Abba, abba il coniglietto, abba. Niente. Tu lo vedi, uia. Gio Maria, ascolta, io vado a prendere la signora da mia figlia. Ci sentiamo dopo. D'accordo, ci sentiamo dopo, vai. A dopo, già siamo qua. Hai visto il coniglietto? E il neonato? Vissuto da Babbo Natale. Dacci reguia, dacci reguia, oia. Che aspettiva. Dacci mandato pure a Luca Flippa e a Luca Montanaro. Oh, niente. Ah, ma cosa hai fatto la risata? Sì, ma che, oia. Con tutta dolore, oggi. Finimi a nome di dolore chi? E pure tradisco, qui a quattro ticco di a due di prato. Oia. E chi c'è lo cappuccetto di Babbo Natale? Ehi, quello lì è un cappellino, chi c'è la via da bocca? E se non lo specchiano. Sono belle a fare le caricature, così sono belle. Così anche ti fai un risultato. La rimandate pure a mio nipote in Inghilterra e a tutti i miei nipoti. Ci sono pisciati sotto, dare risate. Però cazzo, quando si acciuppende, cazzo, tanti rossi. E rossi a occhi a bestia, però. Ah, boh. A occhi a bestia. Non lo sa bene. Ho c'ha bici. Ci sarà su scatta, chi non la vuole più. Ah, così è. E allora? Dai, aspetta. Già so che non. Ebbene, io che so quello. Arrivi da questa fotografia. Oh, aspetta che guardo. Guarda se conosci quella greffa. Beh, tutto, moglie la conosco. E gli altri, chi ci vuole dare d'uno esce a vedere forse lo conosco. Uno biondo che ha da retto, mi sembra di conoscerlo quello. Oh, è Gastone. I miei nipoti, però i nipoti ci sono, dai! Chi sa quelli belli niti, longhi, che ha da reggio, mi pare che non ci sono, Però poi se c'è Luca Montanaro, Luca! Oh, yeah, gatto! Oh, so, quattro figli quasi mari, tutto Rugoddu, e l'osso di Rugoddu, ma, bene, qua che mi cocchia i sabbatti e fatti vedere i selli. E secondo me tu di non mi dure, secondo me tu mi fatti vedere i selli. Non riesco a capire a missire un dolore, gatto. Più la chita so via. Oh, me ne sono pesato di portare in tutti. Stamane che hanno me ne sono pesato alle 7:30, su manco un quarto. Mi fate amare in un minuto e mi fate male. Boh. Un macello, Prima faceva lo braccio lungo due treccio. Ma ci porto pure un cirotto. Tre cirotti mi ha buttato e già mi è passato. Mi basta il cedrezzo e mi viene questo loro a sinistra. Però mi viene pure l'uguzione di Lugabu, mi piglia. Mi avvisa, non posso manco girare l'ugozzo a chi mi dore tutto quanto. Catta, ma voi che si dice, catta, mettere girare Lugabu. Pure un bossato della cadria, perché secondo come è poco, lo grazie. Oh, io non ti dico niente, mi andate a mollare tutto quanto in terra, Quello è colpo d'aria che hai preso. Oh, colpo d'aria, tranquillo. Ma lo credo, perché mi sono accorto, sono andato alla Lidl l'altra lì a pigliarmi leva, anche se da 1,5 litri non finiva, tutto da 2 litri. Evidentemente ha girato il braccio per gli altri che si impulli, che si contenta di impulli, gatto, ha preso sopra un carrello. E darà dimmi duri, darà dimmi duri, ma dolori, non ti dico niente. Se si occupano di un po' di movimento è di manco, però caso mi fermo mi fa vedere il stelle, la notte non ne fa vedere. Devo dormire sempre a destra, che a sinistra non mi posso girare al manco. Io stamattina già un sacco di sene, mi sono pesato di voi sì, e non va via l'unità, a mazzarità, entra in bagno. Mi ripesa all'otto e mi duria un giro, c'è mi duri tutta la di, boh, aggiungito roba male il cuglio. Boh, ma proprio male. E se pure gli hai recuccato di rompo, a me. E cosa metti di chiaro? A mani sono scelti la ciacchi. Io, me l'abbia detto, quando mi ha fatto l'incidente dell'albero. Lei non deve fare più niente, perché ancora non sono finiti i dolori. Così mi ha detto, è già vero. Ogni tanto, se fossi più di tanto, mi vado a sammare, sia le riunioni, l'acqua della goccia, non ne fa vedere, se che fossi, pacu un cammino di zuppo. Ed è da chissà, Graziano, non è che ha già compilato no, avanti le fratture che ha già avuto, ogni tanto si scende, prima una, poi si scende dall'altra, capito? Dovrebbe fare forse, però se c'è voce gatta, ma la pelle è no, che me ne sono cazzato un sacco, ma di un secchio, mi date un secchio pieno, ecco, una bella, è attaccato pure alla ringhiera, mi baso, pure non gli abbiamo rotto, non si può immaginare, però cado un filo da poi, mi boso e mi duri. E così che, sì, forse un po' i forzi. E deve essere dalla voce che sono andato a pigliare l'eva, che ha pigliato questo poco l'eva, mi ha fatto male e ancora mi duri. Prima mi dava un treccio e lo sinistro no, nulla. Mi basta il treccio, la mamma è giunta a sinistra, ma lì c'è più male del treccio. Poi non ti dico niente l'acqua della goccia, no, non lo sto proprio, Caro, facci la cuccia, chi vive? Mamma mia, ragazzi. Oia, per di qui sul gabbaro muro, ecco. Ma dolore, dolore non finì più. E passi di così, bucci di là, e ti basta un poco da buio la pazzesca. Ma è la cameretta mia, che devi scendere l'ultimo pezzo, un po' traseggiato, con gommino. Io gommino sono, grazia. Sono gommino per quello, capito? Adesso arrivando sto. Ma io vi credia, però mi sono capisendo. Pure quando diciamo baro tempo me. È peggio, quando diciamo baro tempo è peggio, mi intendo subito. Capito? Allora tutti questi fratturi, sì, ogni tanto si avverano. E mi fate abbassare un poco di non tanto per, capito? Mi devo bisogni, ma fammi due passi e pare che mi baci al dolore, capito? Ma poi, tocco poco, ma poi comincia a piano piano torna, sempre fisso, sempre fisso, ogni va, ci nasce ma con cane fabbrica, tu puoi immaginare. Con tutta la sera abbuzzati, no, a che, e vedi, mi devo rinomare a te, l'anca, dico, boh, roba la macchina, cosa vuoi tu, cosa l'ho sentito? Battissimo. No, non l'ho sentito, no. Non l'ho sentito, non arriva qua, Boh, la salita intendia, e invece da voi non la gente su più. Boh. Quella antenna deve mettere più in alto, capito? Se no un macello, capito? Più in alto che è possibile. Sì, no, non arriva a me, non arriva. Beh, però la salita dia, chissà, l'ho fatto strano, chissà, capito? Che prima intendia, ma non lo intendo più. Non ho sentito, non ho visto là, non è rientrato. Potrà essere andato fuori, se no sarebbe entrato. Sarà indaffarato, là. Che mazzare, un altro mazzare in giro. Cazzo, a chi dobbiamo mandare? Devo andare a accompagnarmi per l'ora, che vanno un po' guidarmi. Da voi, là la cicchettata, poi a mezzo di più, devo andare a pigliarla, poi si attira a casa sua. È un casino, niente, cazzo, per carità. Un macello, tutto mangiavo camminando a bassa e all'astra. A chi non ha fatto niente? Sono qui lì. Sì, là, c'è anche il motorino. Ma è caduto, ti ho detto che mi è caduto da... l'abbiamo fatto un solaio, no? Sopra il bagno, l'abbiamo fatto una drappa, l'abbiamo fatto il solaio, l'abbiamo fatto dove c'ha tutte le coperte e tutte le valigie, eccetera, no? Per eliminare un po' di roba. E per la drappa è lì, no? Ci ha messo la scala, invece ha allungato la scala, l'ha messa così, senza allungare, e è salita su. Si vede che non l'ha messa bene, si è coricata, dopo non riusciva a scenderne. Come faceva a scendere non c'aveva né telefono in tasca, nulla, non sapevo come fare. Ha tentato di scendere così e catta, si è parato innanzi, all'iscicato si è parato innanzi alla cala, tra la cala, dalla pattrice ero closet. Meno male è andata becca, però si è fratturato la capicola, capito? La capiglia. Così che è già strada e non può guidare, capito? Così che è europea, chi è travaglia di fura, e tocca ogni via andarla chi da questa signora non la botta sarà sola. E adesso soppi soppa andenda che dà. E la sua compagna andeva, capito? La macchina là, ha pure un motorino, ma non può guidare, non può andare in moto, non è mai morto. Si è andata via allora, bu, senti signora, e lei è andata via, bu. E lei è andata via a fermo, perché si scude un capo al lavandino, al closet, capita. Si è parlato in mezzo di cose di ricare, capita? A chi la cara si è coccata, però pensavo che la cara era bloccata, invece no. Così che come si è portato il bene, ha scivolato, così che ha fatto la bigiata e si è fatto la frattura e la capiglia, capito? E io per carità, con tante dia va, sono già un mese e... Allora, 33 cutini, la buona madre va dalla vista, che ci dì? E vedere un po' com'è la situazione, capito? Che io è pure qui su e alle 9:30 deve uscire a casa da pigliarla, poi si attira da voi il ministro Dorrà che esce a mezzo di passaggio, deve andare a pigliarla, poi si attira a casa sua, capito? E non piace nessuno, sono tutti travaglienti che tocca a me, capito? Pazienza, purtroppo, quando è lucì, vabbè, già sono in via, piano piano. Basta, attenta la prossima volta. Ha detto che non passa più, ha detto. E la cara, siccome c'è qui questa cara che si allonga, no? Si dice ai due e si allonga pure, capito? Hai tutta la cara, devi passarla. E tra sera che andava a aprire la drappa, la appoggi, un appoggio alla drappa, no, la appoggi. E chissà con il basamento, mezza borsa. Invece si vede che la borsa amare, gatto, che da voi si è coccata la cara, come andava a toccarla quando c'era sopra. E non sappiamo se farà anni, capito? Gatta per la vita di 2 ore e mezzo sopra, sappiamo come ti fa. E allora ha tentato così e già vedi come ce l'è andata. Si organizzava, o se no si vuole a lavoro, basta, quando deve passare, di lui. Allora io già non faccio più a nessuno, come una cucina. Oh, non saranno. Ma che io faccio la cara più? Grazie, ma che io faccio più i cari? No. Oh, in campagna. Oh, saranno. Oh. No. Grazie. La terra è bassa. Massimo posso ponere bene di carini, non di più, A che sopra non faccio. Oh. Devo immaginare. Sì, vuoi mettere la frea, capito? Sicché mi so che ho 4 mesi di... Io non mi potevo manco muovere. E a me pure mi è andata davvero la buccia. Proprio me, ma beh, a filo, E ho troccato l'osso di Rugoddo, però io... L'osso gli ha mirato di fasciare di Romattesi. E a me mi do di buco tutti e due. L'ombari, ti dai fatta. Quando ha solo braccio di giù, poi scrocchia, ha fatto strato, l'altro va, aveva messo il burro l'altro, su Lombard, tutti i villaggi tre, faccio le braccia, senti. Marcello Brucchio. Basta che... tutti loro si va a firmare. Ogni stasera siamo fatti in campagna a farci un po' di cose a barigliatti. E andavo la sciarda. Non ci ho fatto niente. Tutti in Taranza e tutti in terra. Così che non... Cacchi poco, ma andava a ci ho fatto la terra e basta, ma... Come se fosse un movimento, da bolso un paio di chilo può si sa, capito? È sempre perché tu fatto un incidente, capito? Chi forse non li posso fare, se ci fosse un abuso, ecco, le conseguenze sono qui. Oh no, vabbè, sarà tutto sempre bene, sarà pagato il migliore burrasso braccio, sicuramente. Fermo, ma sei fermo, tu fai la cosa in casa, così che non sei fermo, sei nel movimento, e io me lo so per niente, sia che cos'è la voce, ma, certo, ogni tanto faraggioso piglio un coso da beva, però posso digradire mi basio, a chi non posso pigliare, no, tutta la dirata per la voce, ogni 4 gradini mi fermo, e da poi torno a passì e forse uscì tanto bigo la pelle la stessa cosa e oia il movimento vero fa la magazzino azio cacchi cosetti no che ma io pure sono bloccato bloccato veramente non è giocato fa niente ecco non ho voglia di niente boh. Sono diventato il bruno più la carità di cazzo poi c'è anche Paisio invece hai sì, andi, certo, beh. Boh, hai sì, devo camminare, andi, cosa fa? A corrimi, nato, non saranno. Oh, aspetta. Tutta dolore, mi bocca a corri. Ma anche se mi muovo in casa, non è che come si cade, ti muovi giusto a celebrarsi, ti muovi, copri. Mi piace il braccio, il tocco, c'è come un capo con il braccio alzato, mi fa la terra, dallo dolore. Vai, Sammy, vai, come sta un tempo buono, a fare la campagna, visto che cos'è la forza, io buro, piano piano, se così si fa movimento, allora l'erba l'abbiamo tagliata, così che... metto mezzo burrito, verso di per l'agrumi, ma di per l'agrumi non ne taglio ancora erba, Ti la taccio a chi lo mette dall'erba, la terra sempre umida e alla razza li fa di vedere, capito? Sono lì, no, per tagliare l'erba, però la taglio al mese che entra. Invece la sabbassa è tutto burrito, pure sopra di per la cabina, di curatore. Sono di per la razza per tagliarla e basta. Da lui già ancora gliela tagliamo i buchi, che accende lui a tagliarla, ma non è alzata ancora. A me è rassa, però è sbagliata. Un differenzi, ivi, c'è tutto pieno di cose, la bisica, che attacca canto me, ed è babudina. Atta cazzo viene per la bottina grazia. Lo so già, lui è. Ma poi a piano piano. La sera mi si fa, la sera giù, però chi lo mangiare il fuso e non si può fare. La sera invece è asciutta e poi si andrà bene vicino. Un'oretta. Un'ora oggi, un'ora magari un'altra lì e me la fosse, capito, piano piano. Tanto ma fa movimento, sennò mi trovo tutta un'ora. Sì, ho fatto così, ho fatto. Arrivato e sento. Ma to è così, Catta. Ma fai movimento molto spesso. È chiaro che poi una volta che fai un movimento, magari da poi tanti di... ti rotta, ti fatti rimani. Infatti, ed è così. Se non ci muoviamo, siamo bessi. Cazzo, io non ci potevo mandare la fila. Oh, vedi che prima uscivo io, E andavo pure a campagna. Lo mangiare io, non parlavo mai a campagna, parlavo solo la sera, no. Mangiare io mi si scia. E mi sta stata idea a Sassari, a Ciappa Giulio, da voi per la Porzio Pilato, puro. E c'è la medaglia, la mezza, un caffè. E ogni tanto si fa siamo di basso, si ammazzava un mazzaro così. Solo una mi ne viene a casa. E camminava a piedi un bel. Camminava, e mettava a piedi. Oh, e capì cammina a piedi, forse è paricio, che si sentiva sempre male, tutto il dolore, per carità, cazzo. Infatti, io già mi... ci vado al centro, mi faccio qualche camminata e boh. Non ci sto senza camminare, no. Vabbè, io ripeto, non ho bisogno di uscire di più. Ah, il tuo marito. Ah, ma che mai, no, amici. Ah, ma che mai si è ritirati, cosa abbiamo fatto? No, non avete fatto niente. So che io ci voglio diventare mandrona, capito? Sono tutti meravigliati, bravissimi. Capito? Ma che prima io uscia, non mi riescia. E c'è tutto mandare in giro. Ma prima mai fece, oh, se a casa, se a casa, pure fare al magazzino, o se va, ma non fa niente fa. Sì, c'è appugliato qualche cosa redda così, ma non è in un movimento che deve fare, che fa già prima, capito? Pure malissimo. Però va a cominciare un tempo buono e senz'altro in campagna mi avrà già pagato un poco, tanto mi va bene. Devo dare, ho fatto il rama del rocco dell'alberi. Da voi devo molto zappani. Da voi devo pigliare la cassina e bianchina tutte le drocche dell'albero. Beh, scattivi, mi me lo avevo, e per lasciarli tutti. E non voglio tutti bianchi neanche le dronche. Beh, sono pulito, pezzo a pezzo, capito? E si fa un paio d'ore ogni sera e me lo voglio piano piano. Infatti, piano piano, ogni sera va, comincia a far buono. Alla prossima settimana mi comincia a fare buono. Come ti oggi è una bella giornata, veramente. Stasera siamo parati con i miei mogliti. Ti dico che c'è di avere era un caldo, ma caldo a filo, Ti ho bussato un poco. C'è sole, in la veranda. Ci siamo riposati un poco. Da buona, io... A chi comincia a sentire il sole per freddo, Catta. brutto è così. Quando c'è il sole è bello, ma da voi che non vesse andare un sole è feo. Allora. Grazie. Alessandro, ci sentiamo alla marcia in coincidenza, tanto subito mi devo fare surina. Ciao, buona cena. A te Gian Maria, buona cena. Anche a te, Tore. E anche chi è l'ascolto, chi non ci vuole entrare, avanza, tu ci magna di me furuetti, forza. Vai Tore, buonanotte a tutti, bella me. Sì, ciao, grazie, ci sentiamo domani se coincide, ok, e buonanotte. Riprendi Gio Maria. Mi raccomando, non torna a ciupattire no, a Russi. Immagini se mi ha mandato il rose che se la ciuppende a rose, capita. Catta, e dove ho uscito a casa appassionato, e rose ho ci abbessi. Catta che andiamo. Spero, grazie. Parli da caluccia a rose la prossima volta. A chi le la fuventi, non hai compreso. Ah, su, c'è dura la fredda, dura, no. Non ti pare vero, no. E allora, allungo la dire non trasferti. Va bene, a domani, là. Ciao. Vai, tu. Ciao, grazie, ciao. Mi raccomando, duro la sala bassi. Non è per te più, grazie. ci ho chiesto del gruppo di Ruglioni, a Radua. Sì, Giammari, a Radua, a Pazziretra. Ah, sì, via. Grazie per la mandato di fotografia. Allora, mi dà una unica, se non tutto. A che mi dà il gruppo? È pieno, pieno, pieno. Grazie per un mese tornato, è abbastanza da di tutto. Se andiamo via, andiamo. Oh, Giammari, un altro momento mi dai il numero del telefono di Graziano. Ah, senz'altro. Ah, non ce l'hai? No, oh, me ne sono sempre dimenticato ogni volta che andavo da Edu, per farmelo da. Vabbè, faccio giusto. Va bene, detto. Oh, però puoi domandarmi, ce l'avevo dato subito, esatto. Anzi, chi ha ragione, me. Cos'era? No, è frequenza no, aspetta un attimo che stanno suonando, Giammari. Vai. Ehi, Giammari. Eccoci qua. Ehi, avevano suonato alla porta, avevano suonato. Ma chi lo si è sentito? Deve essere indaffarato oggi. Deve darsi così, deve darsi indaffarato oggi. Vuol dire che sta aggiustando. Beh. Prima sono i doveri di casa, ma parecchio bisogna andassare quando è possibile, quando no bisogna andassare alla base. Infatti prima i doveri e poi i piaceri. C'è l'allegria, non è che andasse una cosa mia senza fatto, ma farli dare un baracchino, no? Un tempo in campagna era uscito. Gatto, ma allora la foca per un mediette, allora gatto, appassionata agli ex, eccetera, perché in campagna gli ex si fanno in campagna, e no che non sono riuscito mai a farlo, no? Aveva buttato lo di polo 11.45, da poi aveva buttato l'ascher buru fisso con la drappola, catta, era 10, 15, 20, 40, 80, 160 metri, tutto trappolato, mezza campagna abbigliato che si di polo, gatto. Canti di ex vasia, mica. Se c'è voce che andasse via, canti di auguri, a mullarli e da buire un travaglio che si è fatto. Allora, ora se la taglio, ora mandare un ghiccio. Me la fatia la cosa in campagna. Infatti era così. Aspetta, cioè, qualcuno ti stava cercando di passarti, ma no. Avanti ci vuole entrare. Che voglio dire, buonasera. A me, fontuma decido, mi. E chi è? Signor Bacchisio. Signor Bacchisio, no, da Giammari non arrivi, Aspetta che mi sposto, da. Aspetta un po', però un po', 5 minuti e mi sposto. Ma che freddo qua, perché danno pulizia. Un attimino che mi sposto e lo devo sentire. Hai sentito Bacchi, un attimino che già si sta spostando Giammaria. E allora buonasera, Buonasera anche a me. Se ne sono sì, se ne sono. Giammaria c'è. Basta. E aspetta per se si è spostato. Signor Bacchi, buonasera. Buonasera Giammaria, ben ascoltato, avanti. Adesso sì che ti sento, Bacchi, qua no, all'altra parte non ti sentono, mentre adesso sono in facciata, così che già passa, va, in facciata già passa. Sì, perché si è affacciato, guarda, capito, è dietro in cortile non gli piace, Giammari, no, gli piace in facciata. Certo, a tutti piace anche in cortile a qualcuno, Sì, a fare l'arrosto in cortile. Quella è la prima cosa da fare, quella lì, da andare avanti a me. Ma che la sera, a cenare, lì, o a pranzo il sabato e la domenica. La rugliera, chi non che non si può fare niente? A bagnare che cose di buono, a campagna, ma chi? La campagna, ma in campagna tutto fango, Giammari, non si può fare nulla. Ma non si può fare niente, Però più ad anzi, sì, primavera, uia! Primavera, facciamo tutto, capito? E adesso, è andato a vedere questa campagna, Tore. No, non sono andato a nessun posto, sono dovuto sempre andare in daffarato, andando. Catta, che mi si butta una base, che mi si butta la... E ne butti, e chi dà, che dà, che ha avuto tempo, ti fa nulla. È sicuro, e i posti bisogna accontentare le torre. E non solo a Eddie, pure le figlie anche. Chi dà, va, mi devi accompagnare qua, mi devi accompagnare là. Tira una base, tira l'altra. Che va a tempo. Cosa dici, devi accompagnarmi io, accompagnarmi là, ti prendi lo traino e ti viaggi. E purtroppo fa accompagnarla io. Ci siamo lì. Graziano, non si sente cosa sera. Ha chiuso direttamente poco fa. Ha chiuso pochi minuti fa, dice che si doveva fare l'insulina, per cui ci ha salutato e a domani. Capito? Così che il Toro è sempre indaffarato, anche quello c'è. Il dovere prima di tutto, però non è che ci vuole una giornata per scendere a un'oretta, basta un'oretta mi a scendere e salire, o no Bacchi? No, ci vuole più a scendere che guardarla, raga. Capito? Un'oretta va e torna, fa tutto, e un'ora ce la fa, a voglia. Otto! Ti pigli a tua moglie, ti pigli a tua figlia, ti do un'oretta della sergine per me, venite con me e andà, boh, e si fa perché sennò non ci riesci mai. E questo qua, è, come stai dicendo tu, un po' qua, un po' là, però ci deve trovare anche il momento giusto per poter scendere, no? Sì, domani mattina guardo, se ci riesco lo chiamo Graziano domani mattina e guardo se è libero il cugino e ci proviamo a scendere a vedere. Allora, un'ora, a volte è vicino, non è lontano, un'ora, a volte ci vuole a scendere, a guardare e te ne sali, capito? Non ci vuole molto, no? L'altro giorno per andare a casa vedere quella di Bacchisio, che ha detto Bacchisio. E così che almeno ti rendirai conto da uno all'altro e se è possibile uno o l'altro, capito tu? Quello è. Un altro giorno vado a vedere quella di Bacchisio a vedere se vi spiega che cosa. Infatti, certo che dopo magari tocca lavorarci molto lì, perché è molto più grande, mentre quella che dice di Graziano è più piccola, sarebbe ideale, però sa, non è che ci siano i figli oggi o a campagna, dice il mio figliolo è attaccato a me, dice a me vuole male in campo. Però dice io c'ho la campagna e anche la casa, a casa non è finita, c'è il russo e basta. Però bisogna pulirla. Tu allergici quell'erba, però fa la campagna. Ma vuoi pure pulita, vuoi? E chi su è? Anche uno... quando si scende un paio d'ore, due, tre ore, e si fa, e si pulisce. Fatti noi, cazzo. Oh, vado a stare la brutta così, no. Oh, allora me la prendo. Oh, prima di tutto, mia moglie non le vuole dare, io ho fatto la battuta, no. Tu mi sembra che la vendiamo, io cosa faccio? Non posso fare più niente, devi pagare per fare la roba. E sto pagando per farmela pulire, da quanta, qualche cosetta gliela faccio, anche io, ma roba leggera. No, assolutamente, è cosa, no, non va a toccarla, no. No, dice almeno il sabato o qualche domenica me ne scendo giù e respiro aria pura, cucino quello che mi piace, non rompo le scatole a nessuno, capito? Ecco cosa puoi dire. Infatti è così, una giornata ci scendi e fai quello che vuoi, ma invece in casa rimani sempre di malumore. In casa, oh, yeah. Ma no, a tempo buono scendi, ci scendo più spesso, là. Adesso magari inverno, cosa fa? Se più venne del pubeo, non sarà, no. Già ci sto scendendo ogni tanto. Certo, per cui... però non come quando è il tempo buono, la primavera, l'estate, io serve molto spesso, sia per innaffiare anche gli agrumi, capito? Se io faccio la fine ghiacciando, allora ci vuoi, la rosa, dice che cante grosso, è così, un bel dai, pure così, ed è pieno, in terra non si può manco passare, da cante vuoi in terra, però non ti ha manco ancora così mira, perché no, è troppo minuto. Sì, infatti. Signor Battisti, allora, piano, senza faccenda. Piano, sempre andando un po'. Capito? E si sono sbagliato al giorno, non si può fare nulla. Poi l'acqua non hanno preso gli agrumi e sono usciti pallocci accanto. Quelli che hanno preso acqua. Io sono un albero di limone. Pallocci, so. E io ho finito il limone dolce. Ma che ogni attenzione di limone. Quest'anno, piccolini. Ora c'è altri alberi, ma ce ne sono parecchie, è un bel carro che un sanno, belli pure sono, però gli agrumi non... Sì, ce ne sono 4 o 5 che sono minuti veramente, ma gli altri sono grossi, dai. Gli altri sono grossi. Però gli ha fatto pure me figliolo, ce ne ha fatti con amici, eccetera. Così che già ve ne è rimasto un bel ancora. Però chi si ripunta, io calarò nel bilo. Oh, non basta la calarò. Sì, vedo che sa da lira che è lunga 3 metri. È come te la vuoi pensare a buttarmi. Eppure che ne farà in terra che ce la butti. Me la cogli e mi magno. Ma alla calarò va, se va chi? Sì, no, adesso bisogna fare domani. Ammaccio adesso. A passarmi. Io ogni anno ne posso lavare per bene, non lo posso fare in acqua, già arrivo da terra con il mio. Sì, da me ci sono piante anche vecchie, capito? E poi ho anche pulite quest'anno e adesso aprile, maggio devo riabbassarlo un po' e togliere un po' di legna a secca che c'è in mezzo, così che riapro un po', ecco, anche in mezzo. È come se esce legna roba, è come se scende dolce di un fiore, bacchi. Cazzo del pieno, eh. Ma sta fiorendo, sta germogliando, è già candente. E tutta la frutta è già partita. Un pesce con un primatino già bruciato, lo va a coppola, ma pesce, la bruna ancora no, la bruna è stupendo, non tiene con la che fiore. La bruna di Monica che lo finisce se tutto. Bravo Moriccio, ancora non manco usci, la giuvito gonfio, niente. Oh, da, se c'è di più bruna, sì. E se c'è, è la bella, bella regina. Ah, ti sei in fiore. Atta. Ah, bruna di Monica ancora non ha messo luci, nulla. La madrina è appena luci, gatta. Lo va a raccocco e gli scioverà, e scioverà, e scioverà, dove cazzo, un capo della luna della mia legna. Non prima di me già scivarendo, no, è una cosa, la bruna è una testa per il coso, la bruna niente, va, niente, rosa, ma lì sta proprio la goccia d'oro, lì sai già scivarendo una testa. Era per la gente di Giovanni, bianca la bianca. E la goccia d'oro è così, a me puro, a te ne posso a bocca in terra, ma che dice la nevi, e là è pure la tua biera, e su Maria Cazzofiore, chissà non carrieggia, a chi va a passare a questo bocco, a chi fa se l'hanno un libro un bello, non hanno un libro in bocco, e non l'ha giudicata, chissà, non ha buttato niente, l'hanno passato l'ha giudicata, ma chissà nulla, così che fiore un bel di fiore, chissà che ne è un bel pruno, di chissà bruna. E poi per l'altra bruna chissà viaitta, grossa che altro bugno, ma che pura si chiama chissà. Chissà per la giù di arboli, chissà buona fascia dura, ma te sì. Chissà viola, che fa la forma della bruna di Monica, però è matura. E chissà proprio dei vecchi che si danno di bruna da un po'. Chissà, è proprio chissà, infatti. Ah, pure questa è carica di fiore, gatto, che insomma sono tutti i fiori e come c'è la brilloci, lasci bruni pure, capito? Ma vediamo un po' là. Otto, ti stiamo annoiando, eh? Infatti, lo sto ascoltando io, stavo guardando anche il televisore. Ah, meno male. E così è bacchino, già, carezzare il gatto. Ma non l'ha giudicato, ma quel, ma fino a poco è babbuddina, è pissica pissica, in mese di dargli agrumi, bacchi. Ma non si può manco passare. Però non ne la voglio tagliare finalmente al mese che entra io, capito? A che mantenere il terreno umido. Mi hai sbagliato, c'era un mese fa. Mira, attenti, hai detto no, conmigo tu non te l'accoglio, io abbassa, ho passato il spugliatore e pulito. In parlata mi dai un pizzo di bruni e la figlia, chi ce la giù di farla ancora? La politica bianca mi dai giù due alberi che ne abbiamo buttati e non ho già avuto il tempo, immagino veramente ho avuto il tempo. C'ho due alberi a capo di guida, la ginnessati e già sono andati, infatti, però è già un paio d'anni che mi prendi, si bugni la figa, bacchi. Tutta si pugni e prima poi la matura che è una bellezza, allora è sempre punta, specialmente la prima, mi. Si pugni e qualcuna buona ne mangiamo. Mi si faccio a Dio, si pianta che si dice la prima mattina, mi sa che a metà di maggio è già la prima, mi piace la canzone, non punta di un dito. Dunque, ho già trovato. Lugacqua come sente, apri luci. Sì, è come sente. Ma come sente tutti, là, tutti più o meno, come sta a aprire la paga, tu mesi, pure la Brunella di Monica, che vi lascio meglio Brunella di Monica. A fine di tu mesi ed è tutto in fiore, diventa tutta la campagna bianca bianca. La prima comunità per me ha fatto andare di minuendo, di due paesi sono rimasti quattro piani. Ma è buono, un anno sì, un bene, buono, è un anno bocco. Caccia, che hanno passato a questo bocco, due anni fa esso canto veniva, è fasciatura. Poi se qui, vedi, sono tre tipi di brulare Monica, specie di brulare Monica. È una che diventa gialla, la matta si forma della brulare Monica. Gialla e viola appena appena. Ma la sai che c'è addosso questa bruna? No, non veniva, se no, tipo sui chili e tutto, l'ho trovato in bruna. Due anni fa, vira a cascette la famiglia, accanto che pure metti bene, su viola e sta bianca, speriamo che andia. Una cosa di come? E le buone che mangiamo, se lo pazienza, che se vuoi fare? No, mi disappetto come prima, che mi ricanno nei medicheggi, nulla, Nuda, nuda, ci devi comprare la l'offerta rava per dare il tronco della bere, eccetera, del barracocco. Chi ci deve obbligare da fila quella bomba? Una bomba oppure un pareggio sciacchetto di cartina, di coso, di grassello, gruppintello di bianchineci, ripiti di laipoli, e non basta nessun insetto. Chi ce lo devo fare? Che se lo devo fare, fate vado a pedare questa casina. Andiamo con Luca, me lo posso fare da Luca, eh. Lo so, tutto a Luca che ci travaglio, che io, quelli bracci, io, già, mi fa girare un gambo. Già lo posso fare a Luca, tutto altro. E le posso bianchi, bianchi, tutto è, tutto il tronco. E la gente ha dato via i ratti, quelli che fine, il sopra, tutta. A chi ti fai che sta cucinita se vuole, e io mi sono messo quanti animali. Io per un amico di maledizione, tu ti sono là per smagnare la frutta. Bacchio, anni fa che per la cassina bastata, chi sa le bonia io? E la ammazzava filo, chi c'ha la paga, chi si è sentito, non fa niente, capito? Non fa niente, chi se ne può per amici un coso, un verderame, capito? Ve la miscio un po', ve la dico così, tanto, ma... Però, ragazzi, la mano, lì non fate niente, bacchi. Non è più vita di una busta. Tutto è ciambato, Gianmarino, non c'è un'idea cassina, tutto è ciambato. Ciamba la cosa. Bene, certo, va avanti. Io ne approfitto che mi sono ciamendi. Ok, ci sentiamo domani, Bacchi. Ok, Gio Maria, è lo stesso. Ci sentiamo domani, ciao. Allora attacchiamo il brutto, dai. Grazie, la piccola chiacchierata, fa sempre piacere. Saluto di casa, a domani se tutto va bene. Ma Bacchisio, Bacchi, saluto di casa e fammi bene. Buon proseguimento, buona cena a tutti e due, chiudo. Avanti Bacchi, aspetto per il finalino, chiudo. Ia, ia, ciao Tore, buona serata, saluto al correa familiare e ci sentiamo domani se tutto va bene. Ciao Gio Maria, buonasera, ti ho cambiato tutto al 100% da parte del mio correa. A risentirci domani, buonanotte, ciao ciao. Ok, ciao chiudo. Ciao Gio Maria, ciao Bacchi. Ciao.